questo è il sound che ti rilassa, scarica lo stress sulla traccia Wispaman insieme a Ness. Per tutta settimana ho lavorato duro, finalmente venerdì inizia il divertimento puro. Passo il cartellino nel lettore contro il muro, lascio alle spalle lo stress e mi proietto nel futuro. Cosa accadrà? Sono all'oscuro, pronto per il weekend, c'è un party di sicuro. Mentre pompo pezzacci nell'appartamento, il vicino capisce che questo non è il momento di citofonarmi, le pareti tremeranno finché non l'avrò spento. Yes, si parte, direzione aperitivo, parola d'ordine, libro la mente per sentirmi vivo. Ormai ho rito, venerdì sera, giù di mojito, prima di un live, divertimento garantito. L'abbraccio con gli amici presenti all'evento, spiriti liberi, trascinati qui dal vento. One love, one heart, white chicken then white bandy bash. One love, one heart, some boy follow me and say mama clutch. Butta fuori, ci ferma, ma noi siamo in lista. Facci entrare man, siamo amici dell'artista. Il collo è ancora dolorante, ma andrà su e giù. Il braccio tiene il ritmo finché non ce la farà più. Divertimento puro, zero droghe sintetiche. È ammessa solo adrenalina più erbe omeopatiche. La mia droga non si sniffa, spaccia né sinietta. Scorre dentro e viene fuori, e il sudore su questa maglietta. È il suono perfetto, e questo è il beat che pulsa nel petto. Si mette in circolo, ti rimane in testa. Sono convinto che è qui che Dio farebbe festa. E poi quel live che ti fa crescere la voglia, quel pezzo che ti ricorda la famiglia, che ti manda a fuoco ogni emozione. Io penso già domani c'è un'altra jam per la nazione. Altro club, altro weekend, non c'è confine. Si torna a casa con la testa piena di rime. One love, one heart, white chicken, then white bandy bash. One love, one heart. Follow the day till the night, yes, alright. And I got my gun now. One love, one love, one heart. White chicken, then white bandy bash. One love, one heart. Some boys follow me, say bomb o'clock. Firebomb, riggedy dum dum, tell her that. Replay for me, Fireband, yeah. From me lamb till a star back up here. Tired till pon the stage, smoke a bong, me na care. Slide the affy after night, after party, rasta weed. Winner and a axe no more, rolling bash me like a spliff. One love, one love, one heart. All night long sing, bubbling ice bomb, yeah. Keep low, keep low. Instrumental version. Yeah, the beat slam play. People, follow me. One love, one heart. Ricorda di santificare life, eh? One love, one heart. One crew, one night. One love, one heart. One heart.